Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Inizieremo questa sera con gli ignobili Nobel, poi quelli veri e poi la fusione fredda. Benvenuti a Möbius, i titoli, e poi rapidamente iniziamo. Ci risiamo anche quest'anno. Sono arrivati gli ignobili Nobel, un concentrato delle ricerche scientifiche più pazze dell'anno. Per esempio, il wasabi spray. Ma ci sono anche quelli veri di Nobel, con un po' di tristezza, un po' di cristalli e universi che si espandono. Rossi fa un altro esperimento. È lui il ricercatore sulla fusione fredda che seguiamo da un anno. Vediamo quali novità ci porta questa volta. Le trappole in cui si cade quando si ha a che fare con il calcolo delle probabilità. Ciò che appare certo, in realtà, può essere impossibile. La banda Osiris ci chiede le ragioni scientifiche della calvizie e perché non esiste ancora una cura. E Möbius risponde. Introduzione alla verità, alla quasi verità, a quelle parziali, a quelle che cambiano sempre. Una filosofa italiana a Bergamo Scienza affronta uno dei temi più controversi della cultura di tutti i tempi. Siamo agli Ig Nobel, sì. Ignobili Nobel. Chiara è qua di fianco a me. E quindi non potevo che non esserci. Non perché dire questa cosa. Comunque, lasciamo perdere le nostre questioni interne. Ogni anno però noi facciamo questa cosa. Ogni anno, puntuale come l'appuntamento con i Nobel, arriva quello degli Ig Nobel o Ignobel, come si dice anche in Italia. Dati ad Harvard per le ricerche più pazze. Ecco, siamo arrivati alla 21esima edizione. Anche questa è una bella notizia. E come sempre vengono assegnati qualche giorno prima dei Nobel. Assegnati dai Nobel veri, questo. Una cosa che non si sa, forse. Ci sono tanti Nobel, certo. Gli ignobili vengono insigniti del premio dai Nobel veri, certo. Con una bellissima cerimonia, anche molto simpatica, con dei lanci di aeroplanini di carta, insomma, una roba molto interessante. Sì. Però direi, veniamo al sodo. Via, partiamo. Quest'anno si sono aggiudicati il premio Ig Nobel per la chimica un gruppo di giapponesi. Loro hanno lavorato sulla salsa wasabi, quella salsa verdognola piccante che sa di ammoniaca, e allora secondo loro può essere vaporizzata per svegliare una persona in caso di incendio, questo è potere climatico, o altra emergenza. E così hanno inventato l'allarme a base di wasabi. E allora il premio di fisiologia è stato invece assegnato ad un team internazionale per una ricerca che dimostra che lo sbadiglio tra le tartarughe a zampe rosse non sarebbe contagioso, come in realtà la scienza pensava. Oh, fondamentalissimo. Peter Snyder e al suo gruppo ha vinto il prestigioso premio per la medicina per aver provato che le persone prendono decisioni migliori su alcune questioni ma peggiori su altre quando hanno l'impellente bisogno, attenzione, di urinare. In pratica, quando si deve andare, ha sentenziato l'esimio scienziato. Insomma, la vescica piena pregiudica la capacità di l'essere umano di prendere decisioni. E come è vero. Vabbè. Può essere. Per la psicologia, invece, gli Nobel l'hanno preso alcuni scienziati norvegesi che hanno cercato di capire perché nella vita di tutti i giorni le persone sospirano. E in effetti non lo sappiamo. Alla procrastinazione strutturata va l'Ig Nobel per la letteratura. Secondo questa teoria, per avere successo bisogna lavorare sempre a qualcosa di importante o per evitare di fare cose più importanti. E lo studio arriva dalla prestigiosa Stanford University. E quanto è vero. E tra l'altro ne avevamo parlato a Möbius qualche settimana fa. Ah, è vero. Un canadese e un australiano invece sono i vincitori dell'Ig Nobel per la biologia. Attenzione, hanno scoperto che un certo scarafaggio australiano, il nome scientifico è Julodimorpha bacchevelli, si accoppia con un certo tipo di bottiglia australiana scambiandola per la femmina della sua specie. Non possiamo dare la marca della bottiglia. No. La questione qui adesso è sostanziosa. Un gruppo di ricercatori europei è riuscito finalmente a capire perché i lanciatori del disco soffrono di vertigini dopo il lancio, ma i lanciatori di martello no. La scoperta si è aggiudicata giustamente l'Ig Nobel per la fisica. Volevi non dargliela. Io mai non sapevo questa roba, pensa tu. L'Ig Nobel invece per la matematica è andato a una serie di personaggi che avevano calcolato, senti un po', la data della fine del mondo. Allora, la prima volta doveva essere nel 1954, poi nel 1982, poi nel 1990, poi nel 1991, poi nel 1994, nel 1999 e infine il 21 ottobre 2011, tra ci pochi siamo. Giorni. Il premio è stato assegnato per aver fatto capire al mondo di fare attenzione quando si usa la matematica e si fanno ipotesi. Eh sì, sarà il caso. Molto istruttivo. Ultimo premio di cui parliamo, il premio più importante, l'Ig Nobel per la pace, è stato vinto dal sindaco di Vilnius per aver dimostrato che il problema delle auto di lusso parcheggiate in divieto di sosta può essere risolto passandogli sopra con un carro armato. Questo filmato è circolato in rete, c'è un video su YouTube, insomma sì, la cosa sì, è vera, divertente. È assolutamente vera. Premio per la pace. No. Questo è tutto per i Nobel di quest'anno. Adesso passiamo ai Nobel serie e io vado via, ovviamente. Va bene, vattene. Adesso però parliamo dei Nobel serie. Lo faccio con Patrizia Caraveo. Buonasera, Patrizia. Buonasera. Direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale di Milano e con la nostra Barbara Gravotti. Ciao, Barbara. Ciao, Federico. Buonasera a tutti. Cominciamo dai quasi cristalli che hanno vinto il premio per la chimica. Patrizia? Sì. Possiamo dire che è un premio dato a una ricerca che è stata a lungo considerata fuffa, sì. Diciamo così. Sì. Il premiato non è stato assolutamente per niente né capito né aiutato, gli è stato detto di togliersi di torno nell'istituto dove lavorava perché le sue ricerche erano talmente lontane dal mainstream della cristallografia che era considerato completamente eretico. Daniel Shechtman è il suo nome, mentre invece sta diventando uno strumento con grandi applicazioni, questo dei quasi cristalli, no? Come al solito però ci vogliono decenni prima che una fondamentale scoperta entri nella vita di tutti i giorni. Mi sembra che per adesso si è entrata nelle nostre cucine perché è alla base delle pentole che non fanno attaccare il cibo, ma sono sicura che se ne scopriranno molte altre di applicazioni. Questo perché i quasi cristalli hanno delle grandissime prestazioni per quanto riguarda il calore. Io vorrei anche dire una cosa, perché quando si parla di questi scienziati eretici, poi ho inizialmente considerato eretici che poi si dimostrano avere invece pienamente ragione, di solito si tende a pensare, ah ecco, vedi, la scienza istituzionale, la scienza ufficiale tende a espellere le persone anche geniali che hanno delle idee controcorrente. Invece io rigirerei l'osservazione, perché al contrario si dimostra sempre quando una persona ha idee controcorrente ma giuste che viene in qualche modo riconosciuta e riassorbita nella comunità scientifica. Quindi vorrei sottolineare la grande capacità che ha la comunità scientifica di ritornare sui suoi passi per accogliere delle osservazioni che inizialmente sembravano andare troppo controcorrente. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Eccoci ancora qua con Patrizia Caraveo e Barbara Gallavotti. Barbara, tu hai analizzato un po' quello sulla medicina dato a tre personaggi. Uno di questi è stato un caso purtroppo molto triste nella storia dei Nobel, perché due giorni prima è morto. Purtroppo sì, è stato un premio Nobel che è stato accolto con molto favore dagli scienziati, perché riconosce un enorme avanzamento nelle conoscenze, l'avanzamento che si è avuto quando si è cominciato a capire meglio come funziona il complicatissimo mosaico della nostra difesa dagli organismi patogeni, dai microorganismi. Proprio Ralph Steinman ha scoperto le prime difese dell'organismo contro i microorganismi invasori, quindi la cosiddetta difesa innata, quella che non discrimina granché quello che è entrato ma lo combatte. E poi gli altri due invece hanno svolto ricerche che riguardano la difesa più specifica, quella che identifica l'invasore e si rivolge miratamente contro di lui. E questi sono Bruce Bettler e Julius Hoffman. Ora, è evidente che una ricerca di questa portata ha avuto e avrà enormi ricadute sulla nostra salute. In particolar modo le informazioni che ci hanno portato i tre Nobel sono già state utilizzate per cure migliori, per dei nuovi vaccini, per delle cure mirate contro i tumori e negli studi contro le malattie autoimmuni. Fermiamoci qua con la medicina e andiamo allo spazio. Allora, Patrizia Caraveo, beh, ma noi di queste cose addirittura anche con te in onda abbiamo parlato tante volte, insomma, su questo fatto che l'universo si sta espandendo. Quindi in qualche modo non c'è molto da raccontare di nuovo, è qualcosa che se ne è parlato tanto, no, di questo dato. La cosa forse più singolare è che i tre che l'hanno ricevuto vengono da una lunga competizione fra loro. Come spesso succede quando c'è un problema caldo, ci sono diversi gruppi che lavorano magari con tecniche un pochino diverse per cercare di attaccarlo. In questo caso i tre premiati facevano parte di due gruppi diversi che cercavano di studiare delle supernove molto lontane per cercare di capire come si espande effettivamente l'universo. Quindi noi sappiamo che l'universo si espande, ce l'ha detto Hubble negli anni 20, e su questa fondamentale verità diciamo non ci piove. Il problema è capire i dettagli e loro sono andati a cercare di capire se l'espansione stava decelerando. L'idea fondamentale era: c'è stato un botto all'inizio, l'universo ha preso una spinta, dopodiché ha continuato a espandersi grazie a quella spinta, però sarebbe normale pensare che piano piano rallentasse, si fermasse. L'idea era che questi volevano misurare era il tasso di rallentamento dell'universo. Hanno scelto di utilizzare queste candele standard in astronomia, che queste sono queste supernove che gli astronomi pensano che quando esplodono hanno tutte la stessa luminosità, e quindi hanno utilizzato tutti i migliori strumenti del mondo, lo Hubble Space Telescope, ma tutti gli strumenti a terra, per cercare supernove nell'universo e per misurarle accuratamente. Hanno trovato esattamente il contrario di quello che cercavano. Hanno trovato che non solo l'universo non decelera, ma accelera. E questa è una scoperta epocale, la ragione per la quale è stato dato il Nobel, perché l'accelerazione dell'universo significa che c'è una forza che spinge l'universo. Noi non sappiamo cosa sia questa forza, l'abbiamo chiamata energia oscura, per analogia con la materia oscura che ci aveva già fatto compagnia da qualche decina di anni, e voilà, come ho scritto recentemente, la ricetta per vincere il premio Nobel sembra che sia cercare qualcosa, trovare il contrario e sconvolgere completamente le teorie che andavano per la maggiore. Qui bisognerebbe dire se bisogna prendere un premio per questa roba scoperta a caso, ma insomma ci riflettiamo un altro. Ecco, io vorrei far notare che ancora una volta per il secondo anno consecutivo questi premiati per la fisica sono estremamente giovani. Addirittura Adam Ries è nato nel 1969, Brian Schmidt è del 1967, l'anziano tra virgolette del terzetto è Saul Perlmutter, il quale è del 59. Beh, insomma, è molto positivo il fatto che dei giovani ricercatori possano ricevere già un premio così ambito, perché per certi anni è sembrato che il Nobel rimanesse un appannaggio di persone tutto sommato a fine della carriera. Patrizia Caraveo, Barbara Gravotti, ciao, alla prossima. Ciao Federico, buonasera a tutti. Ve l'avevo detto all'inizio, adesso parliamo di fusione fredda. C'è qui con me Maurizio, non ridere, perché sennò cosa facciamo? Ridiamo, non si può ridere costantemente. Vabbè, meglio che piangere di questi tempi, insomma. Va bene. Meno male. Allora, no, spieghiamo, ascoltatori e ascoltatrici, come voi sapete, Möbius segue questa vicenda della fusione fredda dall'inizio, poi qui Maurizio Melis la segue secondo per secondo ogni volta che avviene qualcosa. No, noi ridiamo perché se questa cosa diventa vera, tutto quello che stiamo facendo anche adesso cambia. Cioè, il debito italiano potrebbe quasi. Cos'è la bolletta energetica? Questo dipenderebbe dal fatto che noi abbiamo una parte attiva come paese Allora, quello cosa che è successo? Quello dai, che a è Bologna. Successo è che allora c'è stato questo esperimento pubblico, ce n'era stato uno a gennaio, sì. Ci sono stati naturalmente altri esperimenti, ma totalmente a porte chiuse nel frattempo. In questo caso c'era una ventina, 25 persone, tre giornalisti, tra cui appunto il sottoscritto. All'Università di Bologna? Non all'Università di Bologna, no, e questo è un primo, secondo me, punto debole, anche se poco debole, devo dire la verità, presso la sede della EFA, che è l'azienda di famiglia di Andrea Rossi, che è l'inventore, ricordiamolo, di questo oggetto che si chiama Energy Catalyzer e che sembra produrre energia sulla base di una reazione nucleare tra nickel e idrogeno. Si parla in questo caso di reazioni nucleari a bassa energia, poi noi per semplificare chiamiamo questa cosa fusione fredda, anche se non è il termine corretto. D'accordo. Quello che è successo è che è stato ripetuto questo esperimento per circa 8-9 ore, questo cubotto. Perché piccolotto? Piccolotto ricoperto di materiale per evitare di scottarsi, insomma di disperdere troppo calore. Questo oggetto appunto contiene al suo interno la parte misteriosa che è questo reagente nickel con altre sostanze che reagisce con l'idrogeno bene. E sembra produrre appunto energia e direi in quantità notevoli. L'oggetto è attaccato alla corrente, ma misuravamo la quantità di corrente che entrava. Eravamo intorno al centinaio di watt e dall'altra parte avevamo una produzione di acqua calda che era misurata in questa volta, a differenza degli esperimenti precedenti, in modo piuttosto solido, diciamo una misura piuttosto solida, e la produzione di energia diciamo che è stimabile tra i 2000 e i 7000 watt. Dico tra i 2000 e i 7000 perché diciamo possiamo prendere una forbice di indecisione sulla misura dei parametri, quindi nel caso peggiore erano 2000, nel caso migliore erano 7000. La cosa curiosa è che i 7000 li ha raggiunti quando abbiamo tolto la presa della corrente. Quindi ne dà di più, addirittura. Ne dava di più, cioè, per 8 ore di funzionamento 4 le ha fatte senza la presa della corrente inserita. Il sogno degli energetici, no? Stacco la fonte e mi dà di più. Sembra che questa reazione sia una reazione di quelle cosiddette sovracritiche, come nelle centrali nucleari, anche se qui non parliamo di esplosioni, di radiazioni o cose del genere, ma come nelle centrali nucleari la reazione va tenuta a bada, mentre ci sono altri fenomeni che sono sottocritici, che invece vanno incentivati. Questo è uno di quei fenomeni che devi tenerlo a bada. Per cui lo stesso Rossi diceva, quando togliamo la corrente è pericoloso, bisogna starci attenti e guardargli addosso, perché altrimenti lui comincia a salire di temperatura. Ora, cosa diciamo adesso a questo io punto? Non so più cosa pensare e anche gli occhi, le facce della gente che erano lì esprimevano credo ma più tu o meno non hai potuto appoggiare l'orecchio perché è caldo per sentire se sono dentro degli animali, no? Qualcuno criceti, che... no attenzione, poi è stato aperto alla fine della serata. Poi, è stato aperto, attenzione, il cubotto di questo materiale isolante. Immaginate all'esterno tipo carta stagnola, una cosa un po' più sofisticata, ma sostanzialmente era carta stagnola. E dentro c'era, questo mi è stato descritto perché io non ero presente alla fine dell'esperimento, ero qua in radio a lavorare, era un quadrato di 20x20x1 cm, tipo una piastrella quindi, e attaccato c'era un radiatore che può essere più o meno quello di un motorino per intendersi, o al massimo quello di un'automobile. Quindi, una struttura semplicissima. Una struttura semplicissima, mi dicevano a guardarla, sembrava presa da robe vecchie, però questo quadrato coperto di piombo, ed è veramente difficile immaginare come possa esserci là dentro un trucco blasfemo e tremendo. Maurizio, ricordiamo una cosa importante che abbiamo già detto altre volte, gli scettici. Sì, ce ne sono tantissimi, è anche comprensibile, siamo di fronte a un fenomeno sorprendente, però secondo me a questo punto gli scettici dovrebbero proporre una spiegazione, spiegare, dirci quale potrebbe essere il trucco. Altrimenti, insomma, credo che si debba prendere atto che c'è qualcosa lì da approfondire. Di significativo. Grazie, alla prossima puntata. A te, Federico. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Mettetevi le mani nei capelli perché sta arrivando il nostro quiz. Quale comportamento può causare la caduta dei capelli? Questa è la domanda. La prima possibile risposta, lavarli troppo, scriverete troppo. Esporli allo smog, ci scriverete smog. La terza, nessuna delle due precedenti, la caduta è sintomo di un disturbo e ci scriverete disturbo. Come al solito, con un sms al 349-238-6666. Il libro che si vince è Introduzione alla verità di Franca D'Agostini, edito da Bollati Boringhieri, e questo libro offerto dalla libreria Rizzoli.it. Oh, attenzione che la risposta arriva più tardi. Ciao Alberto. Ciao Federico. Alberto Lionte qui con me. Abbiamo letto insieme un articolo sulle scienze e ci è venuta l'idea di parlarne perché il tema è interessante. Abbiamo qui l'autore. Sì, abbiamo l'autore che è Paolo Attivissimo, che è giornalista informatico e studioso della disinformazione nei media. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno agli ascoltatori. Collega giornalista che si interessa di disinformazione. Prova a darci tu, poi vediamo degli esempi, il titolone, la definizione di questo problema. Il problema è l'errata percezione delle probabilità. Noi siamo dei pessimi animali probabilistici. Non sappiamo distinguere quando una probabilità è favorevole o spesso interpretiamo in modo erroneo le statistiche. Questo è il problema. Sì, che si presta poi inevitabilmente a fortissime manipolazioni. Faccio giusto un esempio brevissimo. Se un datore di lavoro si lamenta che il 40% delle assenze dei suoi dipendenti avviene di lunedì e di venerdì, tutti dicono, vedi, sono dipendenti fannulloni perché vogliono fare il ponte lungo. In realtà, questa è nella media normale di quello che dovrebbe avvenire. Spiega un po' meglio, cioè? Vale a dire che se noi abbiamo 5 giorni alla settimana di lavoro, le assenze dei dipendenti saranno distribuite equamente su queste 5 giornate. Quindi saranno un 20% al giorno? Esatto, quindi 20 più 20, 40% è lunedì e il venerdì. Ecco, questo è un esempio chiarissimo di come si può avere un'interpretazione. Perché poi, scusa, c'è questo fatto che la statistica è una delle cose meno conosciute, Sì, c'è anche il problema in gran parte è anche il modo in cui vengono presentate giornalisticamente le statistiche, perché al di là della poca conoscenza di questo settore piuttosto complesso, c'è il problema della mancanza molto spesso del contesto. Se insieme ai dati non si dà un'indicazione della loro affidabilità, non si spiegano i metodi con i quali sono stati raccolti, possiamo trovarci di fronte a una cifra arida che è molto interessante, fa bello come titolo, però è poco efficace nello spiegare i veri termini del problema. Sì, e il problema del contesto appunto da cui emergono i dati è proprio il tema centrale o uno dei temi dell'articolo di Paolo Attivissimo. Sì, abbiamo questo grande problema nella fretta di voler pubblicare un dato, un titolo di una riga sola che riassuma il problema, molto spesso si perde per strada la situazione nel suo complesso e questo può portare a degli inganni intenzionali o non intenzionali decisamente forti. In quel caso ad esempio si diceva che durante uno sciopero dei medici era diminuita la mortalità, ma senza precisare che l'analisi era fatta sui pazienti ricoverati e non era una mortalità assoluta, diciamo. Esatto, era calata la mortalità ospedaliera, ma non quella della zona nella quale era stato fatto il rilevamento statistico. Quindi non facendo le operazioni a rischio di mortalità, chiaramente non c'erano morti. Esatto, però nel complesso la mortalità nella zona era rimasta invariata, però bastava togliere quella precisazione che si trattava di mortalità ospedaliera per cambiare completamente il contesto della frase e del dato statistico. Quindi quello che è una semplice coincidenza diventa invece improvvisamente un dato reale, no? Diventa. Sì, si gioca molto spesso su questo genere di affermazioni sensazionaliste. Per esempio in questi giorni negli Stati Uniti si fa polemica sul fatto che muoiano più persone per l'errato uso di medicinali o per l'errata prescrizione di medicinali che per incidenti stradali. Questo sembra un dato veramente inquietante. Poi si va a vedere come stanno realmente le cose. Sì, il dato in sé è vero, però vengono messe in relazione due fenomenologie letali che in realtà non sono collegate fra loro e che servono semplicemente a creare sensazione. Noi tutti abbiamo esperienza aneddotica o a volte tragicamente diretta di un incidente stradale e lo riteniamo un fenomeno estremamente comune, per cui applichiamo questa percezione all'altro fenomeno e in questo modo si riesce a gonfiare un caso giornalistico quasi dal nulla. Ma ci sono esempi anche più innocenti, diciamo, quello celebre dello psicologo premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman. Noi abbiamo pensato un po' a questo, ne avevamo già parlato in radio, non so cosa tu ne pensi. L'esempio è questo, lui ha fatto proprio degli esperimenti su come la gente percepisce le probabilità e li ha fatti con le persone e racconta questa storiella. C'è una signora, una ragazza abbastanza giovane che ha studiato all'università, era molto radical, molto impegnata nelle lotte politiche, anche femministe, poi lui chiede alla gente che probabilità ci sono secondo voi che questa signora lavori allo sportello bancario e la gente dice mettendo insieme due cose poco probabile. Poi dopo lui chiede, però lei è figlia di un direttore di banca, e allora la gente dice, ah beh, allora è decisamente più probabile. E poi lui aggiunge, però è una che ha molti interessi per lo yoga, le culture orientali, e allora la gente ritorna a dire, eh beh, ma allora è sempre meno probabile. Il risultato curioso di questa cosa è che dal punto di vista statistico, ogni volta che aggiungiamo una caratteristica esistenziale nel carattere di questa persona, beh, diventa sempre meno probabile, no, che faccia tutte queste cose insieme. Ma la gente attribuisce, a seconda che sia più o meno coerente col lavorare in banca, attribuisce una probabilità che sale e scende, no? Questo è un esempio, secondo me, abbastanza eclatante, no? Sì, lo trovo affascinante e credo che riveli molto sul modo in cui noi valutiamo la realtà. Questo è un fenomeno quasi antropologico, direi, nel senso che quando ci viene presentata questa serie di informazioni, ci viene chiesto di prendere una decisione sulla base di dati largamente insufficienti. Abbiamo solo magari due punti di informazione e su quello ci viene chiesto di creare un'intera situazione. Man mano che viene precisato il contorno di questa persona, allora in teoria dovremmo avere maggiori, abbiamo la percezione più chiara di questa figura immaginaria. Però non ci rendiamo conto che appunto si sta realmente, in realtà, riducendo il numero di persone candidabili a quella posizione. E un altro fenomeno tipico è per esempio il modo in cui nelle indagini o nei processi si parla molto spesso della prova del DNA come se fosse una prova schiacciante. Se un medico legale dichiara che c'è una probabilità su 1 milione che il DNA del sospettato sia corrispondente a quello trovato sul luogo del delitto, allora molto spesso si dice, beh, allora se c'è la corrispondenza, le probabilità che lui sia innocente sono 1 su 1 milione. In realtà non è assolutamente così, questa è conosciuta come la fallacia del procuratore. Eh sì, perché bisogna chiedersi invece quante persone potrebbero avere un DNA simile, qual è il rischio di... interessante su questo argomento. Per esempio, se qualcuno dice, teniamo presente il contesto nel quale si fa l'esame del DNA, non si fa un esame completo per una corrispondenza totale dell'intera sequenza, ma si usa una serie di punti di riferimento, variabile a seconda delle giurisdizioni, però comunque c'è un certo numero di punti che devono coincidere, come si fa del resto con le impronte digitali. Se per esempio si sostiene che c'è questa probabilità di 1 su 1 milione, questo in realtà vuol dire, a noi sembra una cosa assolutamente improbabile, ma vuol dire che in una città di 10 milioni di abitanti, in media ci sono 9 altre persone il cui DNA corrisponderebbe al campione trovato sul luogo del delitto, con lo stesso grado di affidabilità e di sicurezza di quello del sospettato. Poi è ovvio che vengono introdotte altri dati che permettono di escludere alcuni di questi altri potenziali candidati sospetti, come per esempio l'età, il luogo, l'alibi, però questo è il modo in cui le probabilità possono essere manipolate per creare percezioni errate, per esempio in un giudice o in una giuria. Direi che è una bella grana, chiudiamo qui, è un problema piuttosto grosso ed è un problema grosso di informazione, certamente. Grazie Paolo. Grazie a voi. Grazie. Ciao, arrivederci. Alla prossima. Gilberto Corbellini, storico della medicina, buonasera Corbellini. Buonasera. E qui da noi per un breve ma accorato appello, l'ultima versione della finanziaria sta per travolgere un'importante istituzione di ricerca come riflesso di fondi tagliati alla Regione Basilicata. Corbellini, di che si tratta? Sì, si tratta che la Regione Basilicata nel giugno scorso ha votato una legge per cui in sostanza si sgancia dall'impegno con, diciamo, la società di cui era azionista unico Metaponto Agrobios, che è uno dei più importanti centri di ricerca biotecnologica applicata alle piante che abbiamo in Italia. Si tratta di una struttura dove lavorano decine di ricercatori di alto livello, che da 25 anni è competitiva sul piano europeo e internazionale nell'uso e applicazione di diverse biotecnologie agrarie per migliorare coltivazioni di grande rilevanza anche per il nostro cosiddetto, diciamo, nostra cosiddetta agricoltura tipica, insomma. Ha creato linee di pomodoro San Marzano resistenti ad alcuni virus, ha sviluppato alcune nuove melanzane e patate, anche queste resistenti a insetti, compete a livello internazionale nella ricerca, in progetti di ricerca per studiare la genomica di alcune piante modello. Insomma, noi abbiamo un centro d'eccellenza. Un gran valore che sta per essere travolto. Far ripartire l'economia di questo paese e invece rischiamo di perderlo. E la logica del taglio lineare che non va a capire invece che cosa è assolutamente indispensabile mantenere. Va bene, noi l'abbiamo detto, poi magari ne parleremo più ampiamente, insomma, ma l'importante è far sentire qualche voce per evitare che questo centro venga travolto. Può andare in rete, digitare Metaponto Agrobio, se si possono trovare anche importanti prese di posizione da parte della Società Italiana di Genetica Agraria, da parte dell'Accademia Nazionale dei Lincei, e si può anche sottoscrivere un appello alla Regione Basilicata. Grazie Corbellini, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. È la prestigiosa banda Osiris che, come ascoltatori di Möbius, ci ha fatto la domanda che di solito invece ci pongono gli ascoltatori tramite Facebook o tramite la nostra mail mebius@radio24.it. Ma ascoltiamola. Una domanda sulla scienza. Ci vuole un qualcosa che sia stato testato. Siamo arrivati a questa conclusione. Una domanda che proporremmo la faccia al professor Berti, che è il più esperto nel settore. Io vorrei chiedere perché non si è mai ritrovato un rimedio per la ricrescita dei capelli. Anche quella per fermare la caduta, secondo me. Ah sì, giusto. Anche se in realtà si crea uno strumento molto interessante con la caduta dei capelli, che è il famoso tamburo. Come viene costruito il tamburo? Ma il tamburo è semplicissimo, basta una pelle tesa sopra una zucca vuota che rimbomba. Sono simpatici. Stravolti come sempre. Sono simpatici. E ovviamente noi come sempre abbiamo cercato e abbiamo trovato l'esperto che possa rispondere a questa domanda. È qui con noi stasera Fabio Rinaldi, buonasera. Buonasera. Che è specialista in dermatologia ed è anche presidente della International Hair Research Foundation. Ecco, lei la domanda l'ha sentita, insomma, che cosa può rispondere a questi mattacchioni? Beh, no, risponderei che invece sono anni che ci sono cose che possono fermare la caduta dei capelli, proprio scientificamente parlando, con medicine, con varie sostanze, addirittura anche naturali se uno non vuole prendere una medicina, e addirittura con le nuove frontiere delle terapie, con i fattori di crescita, con queste terapie cellulari, tra l'altro tranquillissime, addirittura nel 70-80% dei casi della calvizie comune, cioè di quello per cui i nostri amici dicevano, addirittura possiamo sperare che dei capelli possano ricrescere. Quindi no, ci sono grosse possibilità nuove. E allora perché la gente comune pensa che non esista una cura? Forse perché, essendo la calvizie una malattia, probabilmente il rimedio in qualche modo attutisce o allevia in qualche modo l'effetto, che è quello della caduta, però forse non si è ancora trovato un rimedio per la malattia? Sì, è vero, questa forma si chiama androgenetica, che vuol dire che è geneticamente predisposta, quindi se uno è geneticamente fatto così, come l'80% degli uomini e il 60% delle donne, quindi tantissimi, è chiaro che ineluttabilmente la manifesta. Però è un po' come dire, ho la pressione alta, magari non riesco a mandarla giù, però con dei farmaci la tengo giù, quindi non ho tutti i rischi della pressione alta. Allo stesso modo, stiamo parlando di altre cose ovvie, ma allo stesso modo, se io trovo delle terapie, delle indicazioni per trattenere i capelli che uno ha, quindi per non progredire nella calvizie o addirittura magari aumentarli un po', posso controllare i sintomi a lungo tempo. Purtroppo nella mentalità comune i capelli sono una cosa molto strana e circondati da quest'aura di difficoltà e di mistero, ma in realtà si curano come qualsiasi altra parte del corpo. E in parte abbiamo risposto anche alla domanda del nostro quiz, sì, che era appunto quale comportamento può causare la caduta dei capelli. Abbiamo detto lavarli troppo in effetti non può essere la causa, certo potrebbe essere un fattore che aiuta il processo, certo. Lo smog, lo stesso discorso. E allora la risposta corretta era, mi dica lei se sbaglio, nessuna delle due, perché è il sintomo di una malattia. malattia. Esatto, è un sintomo di malattia, però farei una correzione molto, secondo me, importantissima, tra l'altro legando i due problemi. Lavarli troppo non causa mai la caduta dei capelli, è come dire che se lavo troppo i denti mi cadono i denti, anzi non mi viene la periodontite. Lavare tanto i capelli vuol dire tenere un'igiene del cuoio capelluto con degli shampoo chiaramente giusti, ce ne sono tantissimi, che non porta a infiammazione e irritazione. Perché? L'altra domanda era perché lo smog può far male, ed è vero, lo smog e l'inquinamento. Nel 2007 noi abbiamo fatto un lavoro a Milano su 500 persone tutto l'anno e abbiamo dimostrato come tanto più aumentavano i livelli di smog, tanto più la pelle si irritava e addirittura la conseguenza era una caduta dei capelli. Quindi lavare i capelli vuol dire pulirli dallo smog, dal proprio sporco, dall'inquinamento, e ormai siamo a livelli di smog anche in queste stagioni qua, quindi lavare i capelli non fa mai cadere i capelli di frequenza. Ok, quindi era proprio sbagliata. Assolutamente sì. Okay. È proprio un atteggiamento contrario, quindi è corretto. Però mi sembrava di cogliere, no, Chiara, nel messaggio concitato della Banda Osiris, sì, anche questa chiamata alla ricerca, no? Nel senso, perché non fate qualcosa? La state fiducia facendo, nella scienza. State facendo qualcosa di nuovo? Sì, tantissimo, ci sono continue ricerche, ormai proprio ricerche molto di alto livello scientifico. Questi nuovi orizzonti sono proprio la ricerca sull'uso dei fattori di crescita, che sono i propri, si chiama medicina o dermatologia rigenerativa. Ci dica cosa sono i fattori di crescita. I fattori di crescita sono quelle sostanze che aiutano il corpo a gestirsi, a vivere, stimolano la cellula a vivere, a morire, a cambiare, cioè ci regolano, sono i messaggi delle cellule per star bene, per farci vivere. Ci sono messaggi specifici per ogni tipo di cellula, quindi se noi andiamo a prendere per esempio le piastrine, questo plasma ricco di piastrine contiene in realtà i fattori di crescita all'interno delle piastrine che stimolano i capelli, per esempio le cellule staminali proprie dei capelli a ricrescere. Adesso ci sono studi su tutte queste cose complicatissime, i fattori di crescita, la matrice acellulare, e da lì che è quello che il corpo umano viene regolato per vivere, e da lì che si prende la fonte per guarire certe cose in tutti i campi della medicina e in dermatologia. Proprio si chiama dermatologia rigenerativa perché è sicuramente il futuro della terapia. Quindi è proprio una rivoluzione che sta per arrivare. Beh, è una rivoluzione che ormai è da tanto tempo che si conosce, ma sì, è una rivoluzione che si comincia a poter usare quotidianamente, insomma, quindi è in atto. Calvi, attendete che diventerete dei gorilla. Quindi anche il signore della Banda Osiris, di cui non ricordo il nome. Oppure calvi attendete, ma si può già cominciare a fare. Quindi. Si può già incominciare, sì, a fare. Va bene, grazie dottore. Grazie Rinaldi. Grazie. E qui con noi questa sera Franca D'Agostini. Buonasera D'Agostini. Buonasera. Filosofa della scienza, lei insegna a Torino al Politecnico e anche qua a Milano, no? Alla Università Statale. Sì, faccio un corso di logica ed epistemologia delle scienze sociali. E lei è qui però con noi perché a Bergamo Scienza, ci dica esattamente la data. È il 13. Il 13. 13 di ottobre. Terrà una introduzione alla verità. Come meeting, come tema dell'incontro, ma è anche il titolo del suo libro uscito per Bollati Boringhieri. Sì, sì. Poi io rimando, stiamo già parlando del Festival della Scienza di Bergamo, rimando al sito per vedere orario, dove, come. Allora, Introduzione alla verità è un titolo ambizioso, si potrebbe pensare che in questo libro noi troveremo spiegata con esattezza che cos'è la verità a tutta tonda, invece lei può già partire dicendo che la verità è un concetto scettico, che sembra quasi un'antinomia, insomma, qualcosa che è antagonista alla verità, però è così. Il libro, diciamo, è tutto costruito a partire dall'idea fondamentale: quando, come, perché usiamo l'espressione questo è vero, questo non è vero, le cose stanno così, le cose non stanno così, oppure questo è un fatto, no? E allora la prima risposta che noi troviamo, e che appunto viene poi sviluppata nel libro, è che noi non usiamo mai, cioè questi concetti in realtà noi non li usiamo così spesso. Io non dico mai è vero che oggi piove, di solito dico piove, sì, più rapidamente, sì. Non dico neanche è vero che Dio esiste. No, sì. A condizioni normali dico di esiste, piove, oggi è una bella giornata, no? Dico delle cose, non ho bisogno di dire che è vero. No, il discorso è quando effettivamente usiamo è vero non è vero, no? Mm. E allora, per esempio, Quine dice che noi usiamo questi concetti quando abbiamo bisogno di effettuare una ascesa semantica, cioè passare dal parlare del mondo a parlare delle parole, dei discorsi, delle teorie, no? E qui appunto anche delle teorie scientifiche, delle teorie processuali, pensiamo al problema del processo dell'assassinio di Perugia, no? Quando noi parliamo di parole usiamo questi concetti, no? Questo è vero, questo non è vero. Allora il punto interessante è perché mai effettuiamo queste ascese semantiche. Ritorniamo a è vero che oggi piove. Io non dico è vero che oggi piove, lo dico se ci sono dei dubbi, se qualcuno mette in dubbio quello che io dico, no? Sì. Se ci sono dei conflitti, c'è qualcuno che dice no, non piove, io dico no, è vero che oggi piove, oppure qualcuno dice to, piove, un altro dice no, non piove, e io dico no, è vero quel che ha detto il primo. Quando no? C'è un po' un confronto, lei dice, di ma tesi. Sempre, noi usiamo sempre i concetti filosofici fondamentali quando ci sono dei dubbi, delle perplessità, dei conflitti. È chiaro che poi nel contesto del confronto discussivo, della ricerca, salta fuori il vero inteso come effettivamente vero. Un tema piuttosto interessante è la verità e la cooperazione proprio nella ricerca scientifica. Il meccanismo è appunto come si arriva poi all'accertamento della verità scientifica, no? Che poi è la verità scientifica è diversa dalla verità reale, cioè dalla verità vera. Allora noi abbiamo tantissimi esempi a partire da, non so, la teoria di Einstein, che era considerata assolutamente canonica dell'impossibilità di superare la velocità della luce, già soltanto pochi giorni di fa. Di queste settimane, certo. Certo, abbiamo saputo che non è così, che ci quindi il principio di rivedibilità è molto importante nella scienza. Ma in che senso la cooperazione? La cooperazione nasce con la scienza perché la scienza è un discorso argomentativo e l'argomentazione è essenzialmente cooperazione. Io argomento se voglio accordarmi con un altro, quindi primo elemento. Poi la cooperazione diventa nella scienza fondamentale quando cresce la complessità, nel senso che io non posso da solo, il ricercatore isolato, che quando in situazione di crescita di complessità non c'è più, allora interviene il team scientifico, la squadra, no? Il gruppo. Sì. Oggi abbiamo addirittura un allargamento della cooperazione, addirittura si è parlato appunto di questo nuovo metodo di sfruttare gli utenti di internet per fare delle ricerche di tipo combinatorio, no? E proprio con questo metodo pare che sia stata trovata la forma, la struttura di una molecola responsabile dell'AIDS. Quindi diciamo che la cooperazione si allarga. L'idea che la cooperazione faccia crescere l'utile, no? Quindi cresce la cooperazione, cresce l'efficacia dei sistemi, cresce l'utile, che il payoff, dicono gli studiosi della teoria dei giochi, no? Questa è un'idea che appunto nella teoria delle decisioni dei giochi è molto diffusa, non è proprio ovunque nell'economia, diciamo normalmente in economia, però resta che l'elemento della cooperazione, la nostra specie è riuscita lentamente a capire che la cooperazione è un elemento essenziale dell'accertamento della verità, ma anche della promozione della giustizia, della promozione del benessere sociale, individuale. Sì, per lo sviluppo proprio in generale, di una buona società. Come dire, ecco, sì, ci si chiede, ma un attimo, ma cooperazione e la competizione? Nella scienza c'è anche come elemento importante l'elemento della competizione, no? Che è un grosso stimolo, no? Alla ricerca, perché ricordiamo la competizione è la competizione di teorie, di argomenti, no? E quindi di nuovo se la verità nasce, il concetto di verità funziona all'interno di un conflitto discussivo, no? Argomentativo, è chiaro che cresce il conflitto, cresce la potenzialità di verità, no? del discorso. Allora, introduzione alla verità, il libro di Franca D'Agostini, edito da Bollati Boringhieri, e lei, Franca D'Agostini, sarà a Bergamo alla sera alle ore 21 del 13 di questo mese. Grazie D'Agostini e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. Abbiamo proprio esaurito tutto il nostro tempo, pochi secondi per augurarvi una buona settimana, ci si risente qui fra 7 giorni.